Capitolo 40. Addio alla casa dei sogni. Il capitano Jim fu sepolto nel piccolo cimitero dall'altra parte della baia, vicino al luogo in cui dormiva la piccola damina bianca. I parenti eressero un monumento molto costoso e molto brutto su cui in vita si sarebbe divertito a scherzare, ma il suo vero monumento era nei cuori di chi l'aveva conosciuto e nel libro destinato a sopravvivere per molte generazioni. Leslie si dispiaceva che il capitano Jim non avesse potuto assistere al suo straordinario successo. Oh, con quanto piacere avrebbe letto le recensioni! Sono quasi tutte favorevoli! E vedere il suo romanzo in testa all'elenco dei libri più venduti! Oh, Anna, se solo avesse vissuto ancora un po'! Ma Anna, seppure addolorata, mostrava più saggezza. Era al libro in se stesso che teneva Leslie, non a quello che potevano dirne. E il libro lo ha visto. Lo aveva letto da cima a fondo, quell'ultima notte deve avergli portato la suprema felicità, e poi al mattino la fine rapida e indolore che aveva sempre sperato. Sono contenta per te e per Owen che il libro abbia tanto successo, ma il capitano Jim la sua soddisfazione l'ha già avuta, ne sono sicura. La luce del faro continuava le veglie notturne. Al promontorio era stato mandato un sostituto in attesa che l'oculato governo decidesse quale dei molti aspiranti era più idoneo all'incarico o aveva la spinta migliore. Il secondo venne accolto nella casetta, adorato da Anne, e Gilbert e tollerato da Susanna, che aveva poca simpatia per i gatti. Lo sopporterò per rispetto al capitano Jim, dottora cara, perché volevo bene al vecchio e non gli farò mancare un buon boccone e i topi rimasti nelle trappole. Ma non mi chieda di fare altro, dottora cara. I gatti sono gatti e di retta a me non saranno mai altro. E almeno, dottora cara, lo tenga alla larga dal piccolino. Pensi che orrore se togliesse il respiro al povero tesoro. Si potrebbe giustamente chiamare una catastrofe, disse Gilbert. Oh, rida pure, dottore caro, ma non ci sarebbe proprio niente da ridere. I gatti non tolgono il respiro ai bambini in culla, disse Gilbert. È una vecchia superstizione, Susan. Oh, beh, può esserlo, come no, dottore caro. Io so solo che è già successo. Il gatto della moglie del nipote del marito di mia sorella stava togliendo il respiro al piccino. E quando se ne accorsero, la povera creatura era più di là che di qua. È superstizione o no, se trovo quella bestiaccia gialla attorno al nostro piccolo, gliele suono con l'attizzatoio, dottora cara. Marshall Elliot e la signorina Cornelia, ora signor Elliot, vivevano in agiata armonia nella Casa Verde. Leslie lavorava al corredo perché le nozze con Owen erano fissate per Natale. Anna si chiese come avrebbe fatto senza Leslie. Uff, sempre cambiamenti. Appena le cose si sistemano per bene, tutto cambia. Ah, disse con un sospiro. A Glen è in vendita la vecchia casa dei Morgan, disse Gilbert casualmente. Oh, davvero? Chiese Anna con indifferenza. Sì, ora che il signor Morgan non ha più la moglie, vuole andare a vivere con i figli a Vancouver. Non chiederà molto perché una casa grande così in un paese come Glen non sarà facile da vendere. È senz'altro una bella casa, perciò troverà un acquirente, disse Anna soprapensiero, chiedendosi se era meglio l'orlo a giorno o il punto a lisca per le vestine corte del piccolo Jem. La settimana seguente avrebbe smesso le vesti da neonato e solo il pensiero faceva venire ad Anna le lacrime agli occhi. E se la comprassimo noi, Anna? Chiese Gilbert con calma. Anna lasciò il cucito e lo guardò con gli occhi sgranati. Non dici sul serio, Gilbert? Dico sul serio, cara. E dovremmo lasciare la nostra amata casa, la casa dei nostri sogni, disse Anna incredula. Oh, Gilbert, è impossibile. Abbi pazienza, mia cara. So che cosa provi, lo provo anch'io, ma abbiamo sempre saputo che un giorno o l'altro avremmo dovuto andare via di qui. Oh, ma non tanto presto, Gilbert, non ancora. È un'occasione da non perdere. Se non compriamo noi la casa dei Morgan, la comprerà qualcun altro e a Glen non ci sono altre case adatte a noi, né terreni per costruirne una. Questa casetta è stata per noi qualcosa di speciale, lo ammetto, ma sai anche tu che la posizione è troppo isolata per me che sono medico. È un inconveniente, anche se abbiamo sempre cercato di superarlo. E ormai è un po' stretta per noi. Forse tra qualche anno, quando Gemma avrà bisogno di una stanza tutta per sé, sarà addirittura troppo piccola. Oh, lo so, disse Anna con gli occhi lucidi. I difetti li nascondo tutti, ma le voglio tanto bene e qui è tutto così bello. Ti sentiresti sola qui dopo la partenza di Leslie e il capitano Jim non c'è più. La casa dei Morgan è bella e con il tempo impareremo a volerle bene. D'altra parte l'hai sempre trovata bella, Anna. Oh, sì, ma è successo tutto tanto in fretta, Gilbert. Io sono stordita. 10 minuti fa non pensavo nemmeno lontanamente di dover lasciare la nostra casetta. Progettavo i lavori da fare in primavera, i lavori in giardino. E se noi lasciamo questa casa, chi la prenderà? È effettivamente isolata ed è probabile che la prenda in affitto gente povera e di passaggio, che la maltratterà. Oh, sarebbe come profanarla, ne rimarrei sconvolta. Lo so, ma non possiamo sacrificare le nostre esigenze per considerazioni del genere, Anna cara. La casa dei Morgan ci andrà a pennello. Non possiamo permetterci di perdere un'occasione simile. Pensa a quel grande prato con i magnifici alberi e al bosco di querce di 6 ettari che ha alle spalle, il posto ideale per i giochi dei nostri figli. C'è anche un bel frutteto, e ti è sempre piaciuto quel muro alto di mattoni intorno al giardino, con la sua bella porticina. Dicevi che sembrava il giardino di un libro di racconti. E dalla casa dei Morgan la baia e le dune si vedono bene quasi come da qui. Oh, ma non si vede la luce del faro? Sì, dalla finestra dell'abbaino. Ecco un altro vantaggio, Anna cara, visto che ti piacciono le soffitte grandi. In giardino non c'è il ruscello. Beh, no, ma ce n'è uno che attraversa il boschetto di aceri per gettarsi nel laghetto di Glen, e il laghetto non è molto lontano. Potrai di nuovo immaginare di avere un tuo lago lucente personale. Ah, oh, non dirmi altro, Gilbert, dammi il tempo di pensare e di abituarmi all'idea. Va bene, non c'è poi tanta fretta, ma se decidiamo di comprarla sarebbe meglio sistemare tutto e trasferirci prima dell'inverno. Gilbert uscì ed Anna mise da parte le vestine corte del piccolo Jem con mani tremanti. Non riusciva più a cucire. Con occhi umidi di pianto si aggirò per il piccolo regno di cui era stata regina felice. La casa dei Morgan aveva tutti i vantaggi elencati da Gilbert: la posizione bella, la costruzione abbastanza vecchia per possedere dignità, compostezza e tradizioni e abbastanza nuova per essere comoda e moderna. Anna l'aveva sempre trovata bella, ma l'ammirazione non è amore. E il suo amore andava tutto alla casetta dei sogni. Quanto l'amava. Amava il giardino curato da lei e da tante donne prima di lei. Amava il limpido ruscello spumeggiante dalla voce argentina. Amava il cancelletto tra gli alberi scricchiolanti. Amava la vecchia soglia di arenaria rossa. Amava gli imponenti pioppi. Amava le due curiose credenze di vetro in miniatura sopra il camino del salotto. Amava la porta storta della dispensa, amava le due buffe finestre ad abbaino del piano di sopra, amava la piccola rientranza della scala. Tutte queste cose facevano ormai parte di lei, come poteva lasciarle? Quella casetta, consacrata anni prima dall'amore e dalla gioia, era stata riconsacrata per lei dalla felicità e dal dolore. Qui aveva trascorso la luna di miele, qui la piccola Joyce aveva vissuto la sua breve giornata terrena. Qui aveva provato le gioie della maternità, realizzata con l'arrivo del piccolo Jem. Qui aveva udito per la prima volta la musica celestiale dei gorgheggi del suo bimbo. Qui, cari amici, le avevano tenuto compagnia davanti al fuoco. Gioia e dolore, nascita e morte, avevano reso sacra la casetta dei sogni. E ora doveva lasciarla. Lo sapeva, anche se aveva cercato di contrastare la proposta di Gilbert. La casetta era ormai troppo piccola. Le esigenze della professione di Gilbert rendevano necessario il cambiamento. La sua carriera, nonostante i successi, era stata ostacolata dal luogo in cui viveva. Anna si rese conto che andava avvicinandosi la fine dei suoi giorni sotto quel tetto. Doveva affrontare la situazione con coraggio, ma aveva l'animo straziato. Oh, mi sembrerà di essere derubata di qualcosa, disse tra i singhiozzi. Se solo potessi sperare che qui venisse gente come si deve o che alla peggio restasse vuota. Sarebbe meglio che vederla invasa da un'orda che non conosce la geografia del paese, dei sogni, né la storia che ha dato a questa casa anima e identità. E se una tribù del genere venisse qui, tutto andrebbe presto in rovina. Le case vecchie fanno presto ad andare giù se non sono curate a dovere. Sradicheranno le piante del giardino, non poteranno i pioppi, la palizzata finirà per sembrare una bocca sdentata, il tetto farà acqua, l'intonaco cadrà a pezzi, tapperanno i buchi dei vetri rotti con cuscini e stracci, insomma un disastro. La fantasia presentò ad Anna un quadro talmente realistico del decadimento della sua casetta da farla soffrire come se fosse già un fatto compiuto. Si sedette sulla scala e pianse a calde lacrime. Susan la trovò in quell'atteggiamento e le chiese preoccupata di che si trattasse. «Non avrà bisticciato con il dottore, vero, dottora cara? Ma se ha bisticciato non si preoccupi. A quel che sento è facile che succeda alle coppie di giovani sposi, però non ho esperienza in questo campo. Dispiacerà anche a lui e presto farete la pace». «No, no, Susan, non abbiamo bisticciato, ma Gilbert vuole comprare la casa dei Morgan e andremo a vivere a Glen. Sono disperata!» Susan non condivideva i sentimenti di Anna, anzi accettò con gioia l'idea di vivere a Glen. L'unico svantaggio del servizio presso il dottore era la posizione isolata della casetta. «Oh, dottora cara, è una notizia magnifica! La casa dei Morgan è grande e bella!» «Odio le case grandi!» disse Anna tra i singhiozzi. «Beh, le odierà meno quando avrà mezza dozzina di bambini», commentò Susan con calma. «E questa casa è già troppo piccola per noi. Da quando qui c'è la signora Moore non abbiamo camere per gli ospiti e quella dispensa farebbe scappare la pazienza a Giobbe. Dovunque ci si gira c'è un angolo e poi qui siamo fuori dal mondo. Si vede bel paesaggio e basta». «Sarà forse fuori dal tuo mondo, ma non del mio», disse Anna accennando un sorriso. «Io proprio non la capisco, dottora cara, però io non sono una persona istruita. Ma se il dottore vuol comprare la casa dei Morgan, fa una cosa ben fatta, di questo può star sicura. Là c'è l'acqua in casa e le dispense e i ripostigli sono una meraviglia. La cantina poi, a quanto ho sentito dire, è la più bella dell'isola. Sa, dottora cara, che qui per me la cantina è stata un vero tormento. Oh, basta, Susan, basta», disse Anna con tristezza. «Una casa non è fatta solo di cantina, dispense e ripostiglio. Perché non piangi con me?» «Beh, non sono mai stata tipo da piangere, dottora cara. Preferisco darmi da fare per consolare la gente invece di mettermi a piangere anch'io. Basta a lacrime ora, si rovinerà quei begli occhi. Questa casa non è male e finora ha fatto bene la sua parte, ma adesso è proprio ora di cambiare, in meglio». L'opinione di Susan fu condivisa praticamente da tutti. Leslie fu l'unica a comprendere i sentimenti di Anna. Pianse anche lei nell'apprendere la notizia. Poi tutte e due si asciugarono le lacrime e si accinsero ai preparativi per il trasloco. «Dato che dobbiamo andarcene, andiamo al più presto possibile, mettiamo fine a questo strazio», disse Anna con amara rassegnazione. «Sai anche tu che ti piacerà la vecchia casa di Glen quando vi avrai vissuto abbastanza ad avere dei ricordi», disse Leslie. «I tuoi amici verranno a trovarti laggiù come venivano a trovarti qui. La felicità la trasformerà ai tuoi occhi. Ora per te è soltanto una casa, ma con gli anni diventerà il tuo focolare». Anna e Leslie piansero ancora la settimana seguente quando fecero indossare le prime vestine corte al piccolo Jem. Per Anna la tragedia durò tutto il giorno finché non ritrovò il suo piccino nella camiciola lunga da notte. «Poi verrà il momento del pagliaccetto e poi quello dei pantaloni e sarà già grande», disse con un sospiro. «Oh, non vorrà tenerlo sempre in fasce, dottora cara», disse Susan. «Angioletto caro, è proprio un amore con le vestine corte e i piedini all'aria e pensi che risparmio di fatica quando si stira, dottora cara». «Anna, ho avuto una lettera da Owen», disse Leslie entrando con volto raggiante. «Oh, mi dà una notizia bellissima. Scrive che ha intenzione di acquistare questa casa dai curatori della chiesa e di tenerla per le vacanze estive. Anna, non sei contenta?» «Oh, Leslie, contenta non è la parola adatta. È troppo bello per essere vero. Starò molto meglio sapendo che la mia casetta non verrà profanata da una tribù di vandali o lasciata in abbandono. È magnifico, è stupendo». Così, una mattina di ottobre, Anna si svegliò e si rese conto di aver dormito per l'ultima volta sotto il tetto dell'amata casetta. Durante la giornata ebbe troppo da fare per abbandonarsi alla malinconia e a sera la casa era completamente svuotata. Erano rimasti solo Anna e Gilbert a darle l'addio. Leslie, Susan e il piccolo Jem erano andati a Glen con l'ultimo carico di mobili. La luce del tramonto picchiava alle finestre prive di tendine. ha un'aria tanto dispiaciuta. Sembra che voglia rimproverarci, disse Anna. Oh, questa sera, Glenn, avrò una gran nostalgia di casa. Siamo stati felici qui, vero Anna? Disse Gilbert commosso. Anna si sentì serrare la gola e non riuscì a rispondere. Gilbert la aspettò al cancelletto, tra gli abeti, durante l'ultimo suo giro di addio nelle vecchie stanze. Ecco, lei andava via, ma la casa restava. Avrebbe continuato ad osservare il mare dalle antiquate finestre, ad ascoltare il gemito dei venti autunnali, a ricevere la sferza della pioggia grigia e l'abbraccio della bianca nebbia. La luna avrebbe inviato i suoi raggi a illuminare i sentieri percorsi tanti anni prima dal maestro e da sua moglie. Lì, su quel tratto di costa, avrebbe continuato a vivere lo spirito dei vecchi racconti. Il vento avrebbe intonato il suo canto magico sulle dune argentee, le onde avrebbero lanciato il loro richiamo dai rossi anfratti rocciosi. Ma noi non ci saremo, disse Anna con gli occhi pieni di lacrime. Uscì e si chiuse a chiave la porta alle spalle. Gilbert la attendeva con un sorriso. La luce del faro risplendeva a nord. Il piccolo giardino in cui erano rimaste fiorite solo le calendule stava già ammantandosi d'ombra. Anna si inginocchiò e baciò la soglia consunta che aveva varcato dopo le nozze. Addio, amata casetta dei sogni, disse, e si voltò.